Settimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, settimo canto. «Papé Satan, papé Satan, Aleppe!» cominciò Pluto con la voce chioccia, e quel savio gentil che tutto seppe disse per confortarmi: «Non ti noccia la tua paura, che poder ch'elli abbia non ci torrà lo scender questa roccia». Poi si rivolse a quell'infiata labbia e disse: «Taci, maledetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia. Non è sanza cagion l'andare al cupo. Vuolsi nell'alto, là dove Michele fe la vendetta del superbo strupo. Quali dal vento le gonfiate vele caggiono a volte, poi che l'alber fiacca, tal cadde a terra la fiera crudele. Così scendemmo nella quarta lacca, pigliando più della dolente ripa che il mal dell'universo tutto insacca. Ahi, giustizia di Dio, tante chi stipa nove travaglie e pene quant'io viddi? E perché nostra colpa sì ne scipa? Come fa l'onda là sovra Cariddi, che si frange con quella in cui s'intoppa, così convien che qui la gente riddi. Qui vid'io gente più ch'altrove troppa, e d'una parte e d'altra con grand'urli, voltando pesi per forza di poppa. Per coteansi incontro e poscia purli, si rivolgea ciascun voltando a retro, gridando: «Perché tieni?» e «Perché burli?». Così tornavan per lo cerchio tetro da ogni mano all'opposito punto, gridandosi anche lo rontoso metro. Poi si volgea ciascun quand'era giunto per lo suo mezzo cerchio all'altra giostra. E io, ch'avea lo cor quasi compunto, dissi: «Maestro mio, or mi dimostra che gente è questa, e se tutti fuor cherci questi chercuti alla sinistra nostra». Ed egli a me: «Tutti quanti fuor guerci, sì della mente in la vita primaia, che con misura nullo spendio ferci. Assai la voce lor chiaro l'abbaia, quando vegnono ai due punti del cerchio, dove colpa contraria li dispaia. Questi fuor cherci, che non han coperchio piloso al capo, e papi e cardinali, in cui usa avarizia il suo soperchio». E io: «Maestro, tra questi cotali dovrei io ben riconoscere alcuni che furo immondi di cotesti mali». Ed egli a me: «Vano pensiero aduni, la sconoscente vita che i fe sozzi ad ogni conoscenza or li fa bruni. In eterno verranno ali due cozzi, questi resurgeranno del sepulcro col pugno chiuso e questi coi crin mozzi. Mal dare e mal tenere lo mondo pulcro ha tolto loro, e posti a questa zuffa. Qual essa sia, parole non c'ha pulcro. Or puoi, figliuol, veder la corta buffa di ben che son sommessi alla fortuna, perché l'umana gente si rabbuffa, che tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di quest'anime stanche non potrebbe farne posare una». «Maestro mio», diss'io, «or mi di anche questa fortuna di che tu mi tocche, che è che i ben del mondo ha sì tra branche?» E quelli a me: «Oh, creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v'offende, or vo che tu mia sentenza ne imbocche. Colui lo cui saver tutto trascende fece li cieli e die lor chi conduce sì ch'ogni parte ad ogni parte splende, distribuendo igualmente la luce. Similemente agli splendor mondani ordinò general, ministra e duce che permutasse a tempo li ben vani di gente in gente e d'uno in altro sangue, oltre la difensione di segni umani. per cuna gente impera e l'altra langue, seguendo lo giudicio di costei, che è occulto come in erba langue. Vostro saver non ha cotasto a lei. Questa provvede, giudica e persegue suo regno come loro gli altri dei. Le sue permutazioni non hanno triegue, necessità la fa esser veloce, sì spesso vien chi vicenda consegue. Quest'è colei che è tanto posta in croce, pur da color che lo dovrien dar lode, dandole biasmo a torto e mala voce. Ma ella s'è beata e ciò non ode. Con l'altre prime creature lieta volve sua spera e beata si gode. Or discendiamo mai a maggior pieta. Già ogni stella cade che saliva quand'io mi mossi e il troppo star si vieta. Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva, sovra una fonte che bolle e riversa per un fossato che da lei deriva. L'acqua era buia assai più che persa, e noi, in compagnia dell'onde bige, entrammo giù per una via diversa. In la palude va ch'a nome Stige, questo tristo ruscel, quand'è disceso al pie delle maligne piagge grigie. E io, che di mirare stava inteso, vidi genti fangose in quel pantano, ignude tutte, con sembiante offeso. Queste si percotean non pur con mano, ma con la testa e col petto e coi piedi, troncandosi coi denti a brano a brano. Lo buon maestro disse: Figlio, or vedi l'anime di color cui vinse l'ira, e anche vo che tu per certo credi che sotto l'acqua qua è gente che sospira e fanno pullular quest'acqua al summo, come l'occhio ti dice, che s'aggira. Fitti nel limo dicon, tristi fummo nell'aere dolce che dal sol s'allegra, portando dentro accidioso fummo. Or ci attristiam nella belletta negra. Quest'inno si gorgoglia nella strozza, che dir nol posson con parola integra. Così girammo della lorda pozza gran d'arco tra la ripa secca e il mezzo, con gli occhi volti a chi del fango ingozza. Venimmo al pie d'una torre al da sezzo. Fine del settimo canto dell'Inferno.